Allora se possiamo, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, brevemente, perché il tempo è... Ecco, allora venga qui. Ci merita possiamo dare spazio a 3-4 piccoli interventi. Ma due cose rapidissime. Io mi chiedo spesso se all'origine del caso della nostra cultura occidentale non c'è una visione abbastanza vicina a questa. Penso al detto del Messimandro, paga il miracolo alla pena secondo l'ordine del tempo. Mi sembra che sotto ci sia una vicinanza incredibile. L'altra è questa: io sono medico e sto aiutando delle persone depresse ad uscire da situazioni abbastanza pesanti. Come diceva bene il dottor Terrin prima, credo che veramente il male sia Dio. Quindi io aiuto le persone a ricostituire un Dio che è patologico nel momento in cui si è malati e non è ben strutturato nel momento in cui una persona è in una grandissima sofferenza. Però sento che la vera guarigione sarebbe ben superamento da questo. E mi stavo chiedendo se il suo libro o altri testi della filosofia della religione orientale non possono aiutare efficacemente, sanamente a superare questo dilemma di vita. Ecco questo. Del detto della Simana. Preso Carattice. Sì, mi sembra molto vicino a questa posizione del karma, non so se è una mia... No, proprio il pensiero occidentale. Sì. Non mi pare che sia vicino a questa forma impersonale. Cioè, all'idea che ci possa essere una sanzione del bene e del male, sì, ma non in una forma così impersonale, così meccanica, che opera proprio come una legge di causa, diciamo una legge di gravità, cioè una legge che si impone per sé. E questo non mi pare che sia il pensiero occidentale, c'è certamente l'idea del premio di giustizia, questo centro dell'opera primitiva, ma in questa forma non direi che esista un pensiero occidentale, perché è la prima volta in questa forma così meccanica, così dura, così radicale, che mette dei testi che io possa usare nel senso di cui avevo parlato adesso. Questo superamento del Dio è possibile in qualche modo assicurare. Io consiglio molti testi a delle persone, consiglio molto di leggere in base alla loro capacità intellettuale, in base alla loro curiosità, alla loro condizione. Credo che gli stimoli intellettuali siano importantissimi. Soprattutto che per certi aspetti un approfondimento di alcuni aspetti del linguismo mi troverebbe soprattutto nei discorsi brevi del buddismo. La possibilità almeno di di vedere la prospettiva di una felicità attraverso certi aziende, sì. Allora il mio interesse sarebbe forse che da un lato si vedesse l'influenza che può avere questo sulla felicità di lui, perché alla fine penso che tutti questi sistemi cerchino non solo la libertà ma anche la felicità dell'uomo, si sviluppano le due cose, e dopo penso, io sono sociologo, allora vedo le cose da un punto di vista un po' storico, forse storicista, e penso che tante di queste cose sono state cambiate attraverso dei periodi, che la religione indiana non è una, diciamo, dall'inizio ad adesso, e sono state cambiate anche apposta, diciamo, per beneficiare certi interessi. Ad esempio si vede anche nel buddismo, che prima era quello hinayana, che è molto democratico, molto aperto, dopo arriva già il mahayana, che è un buddismo meno aperto e già immediato, diciamo. E anche nella, come lei ha detto benissimo, la religione indiana viene approfittata molte volte. Grazie. Dell'interpretazione del rapporto tra anima e corpo. Dato detto che per i cristiani, per il cristianesimo, il dolore, la congiunzione tra corpo e anima, il dolore e la sofferenza hanno un senso perché intanto ciascuno ha un'identità, in secondo luogo ciascuno ha una grande divinità e ciascuno è vocato a una vita eterna, individualmente considerata. Resta il fatto e il tutto viene giustificato dalla presenza del Dio che crea e che salva, pur in un alternarsi tremendo per l'umanità e per tutte le vite personali, o per quasi tutte, di dolore, di sofferenza, di malattia, di morte, a quella forse. È molto di più per chi resta, perché ma comunque ha una sua significanza. Allora, quello che mi ha colpito in confronto al convincimento cristiano, il dolore ha un senso perché in sostanza l'anima si è attaccata al corpo e quindi alla materia e allo spazio. Allora, nella concatenazione biologica è la materia il punto debole, il piede uno. Il secondo, il fatto che ci sia stata una non conoscenza, quindi una debolezza dell'anima appartenente comunque al divenire del divino, chiaramente, non al divino personale. Il secondo punto debole, chiedo appunto, conferma il fatto che la debolezza dell'anima, il suo momento di non conoscenza allora, di una parte del divino, del campo del divino. E ultima cosa è Tagore. Io ho avuto modo di approfondirlo attraverso la sua poesia, non tanto i suoi tecnici, la sua saggistica. Per Tagore il suo, chiedo conferma, perché lo studioso, io l'ho visto nella versione più poetica, veramente i suoi tecnici poetici sono le spiegazioni della profondità della sua anima. La somma felicità è la partecipazione al flusso del divino attraverso la natura. Allora, che funzione nell'ambito della vita rapportata al divino e la necessità che rientro nel divino alla natura, che funziona nell'induismo? E ultimissima cosa, gli esseri umani nella loro globalità e quindi nelle grandi foglie sono insignificanti se non riescono a rientrare nell'ambito del divino? Sono tre problemi che lei in parte ha già illustrato, ma mi premono gli approfondimenti. Riguarda la natura, certamente un posto molto grande, perché può servire come strumento per innalzarsi nelle forme mistiche e può anche essere un elemento che facilita la scienza, la bellezza naturale può aiutare anche la scienza in qualche modo, insomma. Non so se devo dire qualcosa di più su questo fatto del valore della natura nella vita mistica. Molto importante anche perché, per esempio, le Upanishad basano tutto nel rapporto dell'uomo, il rapporto microcosmo-macrocosmo, ed è lì il rapporto tra l'uomo e la natura, microcosmo e macrocosmo. L'uno è specchio dell'altro, anche lì si gioca in maniera molto bella, cioè l'uomo riflette, la persona riflette quello che è l'universo. L'universo è un riflesso dell'uomo. In questo senso può aiutare la scienza mista, perché c'è questa corrispondenza tra la vita e la vita. E poi dice che c'è anche un'unica di questa vita, che è stato e la vita, corpo, anima, in sostanza, esatto, questa loro concezione è uno sbaglio. E allora la giustificazione del dolore è fusta dallo sbaglio iniziale. Anche dello sbaglio iniziale. E del dolore della sofferenza. Sì, nei sbagli iniziali e nei miei dolori successivi. Nel dolore delle successive interruzioni. Io sbaglio proprio nei dettagli del sbaglio iniziale. Allora io continuo a sbagliare. E continuo a sbagliare iniziale e a dolore. Il sbaglio di iniziale è un sistema di fatto di sprecarsi dall'anno di successivo. Bene, allora terminiamo qui, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, ringraziamo soprattutto la Sor Cecilia per questo bel momento, per questo bel messaggio che ha fatto. Anche a noi, non sono Rosa, ma a tutti. Buonasera a tutti.